voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Le batteva il cuore. Un rinoceronte davanti e una sola bala nel cañón. E attenzione, la carga di un rinoceronte fa temblare la terra e allora diventa davvero difficile di appuntare. Ci siamo guardati negli occhi un tempo infinito. E poi di repente è stato come, si dice, una nuvola di polvo che si avvicinava. Io ho lasciato che si avvicinasse. E ta! In mezzo agli occhi. Muerto! Ma scusa, il rinoceronte in mezzo agli occhi non c'è il corno. Naldone, si vede che Aleandro c'ha delle pallottole speciali, fanno il giro. No alarms and no surprises. La porta a rete sbatte, il vestito di Mary svolazza. Come una visione, lei danza sotto la veranda mentre la radio suona Roy Orbison, cantare per quelli che si sentono soli. Io sono tra quelli e tutto ciò che voglio sei tu. Non rimandarmi a casa. Non posso proprio rivedermici da solo. Non tornare dentro di corsa. Tesoro, lo sai perché sono qui. Ed è per questo che sei spaventata e pensi che forse non abbiamo più l'età per certe cose. Dammi un po' di fiducia. C'è magia in questa notte. Non sei una bellezza, ma a me vai bene così. Oh, e per me va tutto bene così. Puoi nasconderti sotto le coperte a rimuginare i tuoi dolori, mettere una croce sui tuoi vecchi amori, disperdere rose nella pioggia, sprecare la tua estate pregando inutilmente che da queste strade si levi un redentore bene. Io non sono un eroe, questo lo sanno tutti, e l'unica redenzione che ti posso offrire, ragazza, sta sotto questo sporco cofano, con una possibilità di renderlo in qualche modo migliore. Ehi, cos'altro ci rimane da fare se non tirare giù il finestrino e lasciare che il vento spinga indietro i tuoi capelli? La notte è tutta per noi. Questa strada a due corsie ci porterà ovunque vogliamo. Abbiamo un'ultima possibilità per avverare i nostri sogni, per scambiare con delle buone ruote le nostre ali. Salta su. Il paradiso ci aspetta lungo il percorso. Dai, dai, prendi la mia mano. Stanotte cercheremo di raggiungere la terra promessa. Questo era l'incipit di Thunder Road di Bruce Springsteen. On her veranda, we watched the ocean daughter beneath a pine. Do you have any children around us change? It's grief washed across her face. Why does why? Daughter disappeared at eight. We gave them money, all we could do is wait. White dove, white dove, why? mercy. Not about tears anymore. Si è aperta la seconda parte di Eclettica. La voce che ascoltate è quella di Giulio Cappardoni. Eclettica in onda tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20. Vi ricordo dell'esistenza della lista nera, ovvero sia la mailing list di questa trasmissione, che vi permette di ricevere nella vostra casella di posta direttamente l'elenco dei brani, dei film e delle letture che caratterizzano ogni settimana. Questa seconda parte si è aperta con No Surprises, sempre da quel OKX, l'album uscito in omaggio a OK Computer dopo 10 anni dalla sua prima pubblicazione, da cui ci eravamo ascoltati delle altre cover, altre rispetto a quella di quest'oggi. No Surprises, nell'interpretazione di Marissa Nadler, songwriter di Boston, Massachusetts, in questo caso aiutata dai Black Hole Infinity. E da quell'album ci eravamo ascoltati nelle settimane passate una cover interpretata da John Vanderslice, che invece è l'artista che vi siete appena ascoltati con un suo brano originale estratto dal suo ultimo album Emerald City, album dal quale ci siamo ascoltati White Dove. Invece ora ascoltiamo un album in uscita l'11 di settembre, Strawberry Jam è il titolo di questo album ed è l'ottavo album degli Animal Collective, formazione che ha realizzato fino ad ora 7 album in 7 anni di storia. Animal Collective che ci fanno ascoltare Derek, una traccia insolitamente corta, visto che il loro catalogo contiene canzoni tipicamente ben sopra i 5 minuti. Se me dicevano, por ejemplo, Alejandro, tú puedes portar tan solo una cosa en una isla desierta. ¿Voy a creerte que habré dubio? El mio fucile de precisión. Thank you. Nella stanza di Candy ci sono foto dei suoi eroi sulle pareti, ma per entrare nella stanza di Candy devi percorrere l'oscurità del corridoio di Candy. Estranei dalla città chiamano il numero della mia piccola e le portano giocattoli. Quando entro bussando lei sorride graziosa, lo sa che voglio essere il ragazzo di Candy. C'è una tristezza nascosta in quella faccetta carina, una tristezza tutta sua, dalla quale nessun uomo può salvarla. Ci baciamo. Il mio cuore arriva al mio cervello. Il sangue mi scorre impetuoso nelle vene. Il fuoco esplode verso il cielo. Corriamo, corriamo perdutamente nella notte. Io corro perdutamente nella luce degli occhi di Candy. Lei mi dice: «Tesoro, se vuoi diventare un duro, hai molto da imparare. Chiudi gli occhi. Lasciali sciogliere. Lasciali infuocarsi. Lasciali bruciare. Perché nell'oscurità ci saranno mondi nascosti che scintillano». Quando stringo forte Candy, lei mi regala quei mondi nascosti. Lei ha vestiti eleganti e anelli di brillanti. Lei ha uomini che le darebbero tutto quello che desidera, ma loro non vedono che quello che lei desidera sono io. E io la desidero altrettanto. Non la lascerò mai andare via, no, no. Lei sa che io darei tutto ciò che ho da dare, tutto ciò che voglio, tutto ciò per cui vivo, per fare mia Candy. Stanotte. Questa era Candy's Room di Bruce Springsteen. Oh, Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 45, volume numero 3. Indice, Scouting for Girls, Pinback, Home Blitz, The Twilight Said, Amina, Marisa Nadler assieme ai Black Hole Infinity, John Van der Slys, Animal Collective, Moose, Rogue Wave. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, ovviamente, sempre alle ore 19 sulle frequenze di Rock FM.